usata, questa forse la terza volta, ma giusto per fare delle prove. Però il 140 a me dà molte più soddisfazioni a me del 440. Il 440 sì, mi è sempre piaciuta come radio, parlo di modulazione, però tende sempre a gracchiarla, tende sempre a trapparla, mentre il 140 tu ci puoi gridare quanto vuoi, non trappa, la modulazione è fortissima. Vabbè, è una scelta, Fabi. È una scelta. Ok, comunque se trovi una radio simile a questa ce n'è in abbondanza. Uno perché commuta elettronicamente, come stavo dicendo a Salvatore, quindi non hai bisogno del commutatore, c'è il commutatore elettronico incorporato, antenna 1, antenna 2, tu pigi e li fa tata, cambia automaticamente. E dopo tutte le funzioni che ha, che sono favolose, quindi a questi livelli sì, per attività KF non ce n'è per nessuno, la IESO ha fatto bellissime macchine veramente, mentre la Kenwood è rimasta ai vecchi discorsi, a parte quello che è uscito adesso, ma a parte quello che è uscito, che è appunto il DS2000, che è il DS2000, ma a me non mi ha dato nessuna soddisfazione. Va bene, mi sembra di aver sentito Grotte, avanti, buonasera. Mi ha detto dalla me, non eri tu Antonio. Non era Antonio, Fabio. No, io l'ho sentito. E poi, oh, aspetta, ma chi c'era? Gianni di Chiaramonte, ci sei? Subito.it e lo guardi e ti rendi conto com'è. Così in quelle condizioni come questo qua è difficile trovarli, perché diventa un apparecchio che ha già qualche annetto, quindi trovarlo così senza nemmeno un graffio, con ancora tutte le sirografie, così si dice, tutte quante le scritte ancora intere senza essere un po' cancellate, è difficile trovarle. E poi si può abbinare se ti interessa, con un che mi deve entrare adesso, deve arrivarmi un altro microfono, le MB più 5, e ci puoi abbinare quel microfono lì e ti limite, aggiungi qualche cosa e ti do quel microfono, ti faccio i collegamenti, te lo abbino a questo qui ed esce una favola. Oh, ti collego, e anche il mio non c'è un graffio e le serigrafie sono nuove. Lo so, ma infatti, ma tu hai preso quello strano, io non lo avresti mai. Sì, no, lo regalare, no. Dai, il prezzo suo, okay? Diciamo che il prezzo suo è intorno alle 3, voilà, in condizioni come qua intorno alle 330, 320, 330, il prezzo suo di questo apparecchio. Ma me lo abbatto, lo metto giù, me lo abbasso per venderlo subito, credo, poi vediamo. Capito Gianni, a 300 euro te lo dammi. Allora, ti ho detto, se mi senti Gianni, tu ce l'hai internet? Vai subito.it, in Sardegna, a Sace, digiti Kenwood 140S, S attaccato, comunque c'è il Kenwood 140 e lo trovi, e vedi le foto, e ti rendi conto in che condizioni è perfetto, questo è perfettamente allineato, va bene veramente. Se te lo guardo, il prezzo qui lì, 9,90, aggiungi 30 euro e ti metto e ti collego un microfono da tavolo, l'MB più 5, che ancora non ce l'ho, mi deve arrivare e lo devo controllare. Se è tutto a posto questo microfono, ti faccio i collegamenti, ti faccio il cavetto e te lo do per collegato a questa radio. E tu lo senti e diventa una poltroia, lo sa come si abbina, dai, questo apparecchio con quel microfono diventa una scheggia. Stai usando quello adesso? No, adesso sto usando le MC 85, però comunque per questa radio secondo me va più che bene, anzi se voi ce l'ho qua un testaggio uguale, solo il MB più 9 è uguale all'MB più 5, ma c'ha l'eco questo. Però quello ve lo faccio sentire come gira. 140 a Lucca, capito? A Lucca, ha rinnovato a 300 euro, ma è nuovo, anche con Lucca è nuovo il pack, c'è la grafia, non ce n'è cagate o Fabri. Perché io col 140, da quando l'ho comprato, dal primo 140, molta gente con l'unghia spinge gli slider, io sempre col polpastrello, è lì il difetto della gente, perché spingi oggi, spingi domani, vai a graffiare e porti via la serigrafia. E invece col polpastrello lo spingi, anziché prendevo l'unghia, lo prendi proprio col polpastrello, lo mandi avanti a colpettini. E non si rovina la radio, perlomeno le mie, quelle che ho venduto io, le ho vendute sempre perfette, sempre perfette. E il coso sta lì, il trucco sta lì, capito? Ma io penso, Gianni, che 350 euro col microfono abbinato della ZJ sia un grande affare, sia un grande affare, perché io l'ho venduto senza il microfono, da tavolo, col microfono da palmo suo originale 300 euro, quindi, perché ne avevo due, ce l'ho sempre io con lui, ed è un'ottima radio veramente. Sul suo stato. Ok, niente, rientro. Sentiamo più tardi. Avanti, Sabato. Perfetto, eccomi, ecco. altrove. Yes, effettivamente è un bel manualone, eh. Adesso l'ho preso, scusatemi, per prima, ma stavo parlando un attimo con mamma e mi stavo un pochettino aggiornando sullo stato. Bella radio, bella radio, mi dispiace togliere il cellophane dalla parte dei LED. Guarda, se vuoi vivere tranquillo, fa una cosa, prendi un coltello, me lo faccio sopra e la grappi subito, così sei tranquillo, dici, cazzo, ormai è fatta, e vivi meglio, soffri stanotte, ma poi vivi meglio. E lo fa dove? E ce lo fanno sui cristalli liquidi ancora. Ah, togliti da quello già. E cosa dici, Marziano? Io ce l'ho un anno questa radio. Fabrizio l'ha vista, guarda, come ha visto tutte le altre, ma non riesco mai a graffiarla perché non ci appoggio niente sopra. Io ho un sistema di lavoro qua che Fabrizio ha visto, cito sempre lui perché è venuto, ma io sono praticamente, non sono una sopra l'altro, capito? Una volta che tu le radio non le metti una sopra l'altro e quando non la usi la copri, visto che ne hai una non riuscirai mai a graffiarla. Poi il frontalino, che è appunto tutto a cristallo liquido come questa, devi stare un po' attento perché se rompi quella, a differenza dell'850 che ha un sistema diverso, hai perso perlomeno col grafico, con tutte le cose che ci sono, fai danno forte, quindi toglilo quello, insomma è brutto da vederci. Io ce l'avevo nell'850 quando è arrivato, l'ho tolto. Anche quella è uno spettacolo da vedere con la radio, perfetta in tutto e per tutto. Ma tutte le radio, anche il 140, tutte quelle che ho, sono nuove, dai. Sono nuove. Va bene, signori, è arrivata la mia ora, io vado a cenare. Allora, io lascio questa per stasera, dai. Se c'è qualcuno dopo, facciamo due chiacchiere, sono altro da mai. Siamo con gli ISO, così almeno, visto che non la uso in HF, la faccio scaldare in AM. Fabrizio, rimetto il mic, va bene così, la tua scelta è buona. Io mi terrei un cable, me lo terrei e poi vai a lavorare su quelle più professionali, tipo 950, 1000 e così via, 2000 eccetera per quanto riguarda la IAS, capito? E sì, è arrivato, perché insomma quando hai radio a questi livelli in HF ti renderai conto che è tutto un altro pianeta, per il sistema audio che hanno e per il sistema di tutto, e anche per la potenza, su quello non ci piove. Va bene, Salvatore, un abbraccio, Fabri, semmai ci sentiamo più tardi, saluto chi è in ascolto, passo in QRT e rimango in ascolto naturalmente e vado a cenare, se ci siete, ci sentiamo dopo, Fabrizio a te Mike. Dai, ok, riprendo io, mi sono preso a cercare una cosa, non riesco a trovare una porta, a farla poi ieri sera ce l'ho messa. Vabbè, buona cena, dai, io ho già finito di cenare, adesso mi avvicino fra un po' a mettere a letto i bimbi. Riprendi, Salvatore. Cappa, anche tu li metti a letto presto, vedo. Sì, forse ci rimangono un po' di più, ma in genere 9:15 sono già a letto. O magari si addormentano chissà che ore, però. Ah no, 9:15, no, no, siccome stavo sentendo prima mia sorella, loro categoricamente cena 7:30 e bambini a letto alle 8. Storiella, che la grande, racconta al fratellino sino alle 8:15, che la legge sino alle 8:15, alle 8:15 si devono spegnere tutti i LED e a nanna. No, così è già troppo presto. Oggi domani poi vanno a scuola, quindi magari un po' di più, però non più di tanto, perché sennò diventa un problema. Poi quando vanno a letto rimangono anche dopo un'ora girando, giocando, dipende da quanto sono stanchi. sì, sì. Ora mi studio come memorizzare le frequenze, perché devo imparare, e così vediamo un pochettino, yes. Quando è l'esame, Faber? Ho fatto le segni anche a me le frequenze, perché io non ho capito un accidenti. A memorizzarle? Ma studio. Così vediamo, perché io voglio avere lo stesso passo dei 40 canali, ho là, capito? Così anche io me lo memorizzo, perché io ce l'ho aperto, scusa Fabio se ti ho preso il microfono, ce l'ho aperto anch'io, non ci ho capito un accidenti. Perché c'è accetto memoria come l'Orte 50. E quindi anch'io vorrei memorizzare dal canale 1 per dire al canale 45 quando passi in AM, capito? E invece ce l'ho libero a frequenza, perché non stavo leggendo ma non ci ho capito un accidente, c'è un passaggio dove non ci ho capito un accidente. Vabbè, studi e poi me lo dici, vai Fabri. Vabbè. No, stava così, dicevo, non lo so, dovrebbe essere, se non c'è rimasto il 20 una comunicazione lo faranno di Filippa a ottobre, ma a quel punto io mi so tanto, anche che mi lascio prendere a mille cose, se no devo informarmi, andare a Genova all'ora e prendere da andare da un'altra parte ad avere l'esame, vaffanappo, l'avevo fatto prima, vabbè. Ho capito. Fabri, siccome sei anche tu iperattivo, ho notato, gioco forza, per come la vedo io, dovrebbe coincidere questo benedetto esame con un periodo dove non sei preso da troppe cose. Insomma, non me frega niente, se non entro il 20, adesso iniziamo prima, è già tardi, che per farlo dall'altra parte la domanda, ma mai chiamo, se mi prendo il primo aereo, parto, me ne fa uno dei giorni su e lo do lì l'esame, vaffanculo. Perché ci sono sessioni in periodi completamente diversi rispetto alla nostra, così è. Non so niente, ma non mi sono mai informato, la verità. Stavo facendo, mandavo al Grode una alla scoperta, infatti qui gliene voglio parlare, a vedere se io sono di quelli che se faccio una cosa io sono di una precisione impressionante, però se non riesco un po' a scaricare, no, detto, occupatene tu, se vi dico a qualcuno occupatene tu, cioè io non so niente, cioè a livello nemmeno zero sotto zero, capito? Io faccio così, io quando abbiamo un qualcosa da fare, ce la prendo io, te la porto ahí, perché sono una pignoleria, però se c'è in due dobbiamo fare una cosa, e tu mi dici, ci pensi tu, ok, ma non mi chiede niente, non so niente, zero, proprio me ne lavo le mani in maniera proprio brutale, capito? Infatti la si ha detto Grode che ha telefonato lui, gli ha detto forse il dito, tutte queste cose qua, e infatti gli ha detto non facciamo fuori, ne fa occupate di più, quindi per me è cancellato, se ne occupa lui io lo seguo, non c'è problemi, se no si sarà offrendo il mio problema. Ho capito. Staremo prima dell'estate, quindi a ottobre. Io ho convinto il primo del prossimo mese, ma mi sa tanto che non è così. Ho già capito. Cioè, sto leggendo qua una marea di voci nei sottomenu. Comunque il manuale è spiegato bene, c'è anche la mappatura per chi vuole fare della programmazione per conto proprio, utilizzare quindi un programma in un PC e pilotare la radio. E comunque con AM Radio Deluxe, accidenti, va a lavorare su un quantitativo sproporzionato di settaggi per i filtri, bellissimo quel software. Lo so, io vado con qua, dovrò lavorare molto meglio ovviamente. Eia, hai una tonalità veramente molto bassa, Fabri. Ma bassa come tonalità? Scusi, sono basso? Ti sto sentendo io basso, o com'è? Può essere, non lo so, strano. Anche tu stai lottando? Grande, guarda, io sto usando il 140 adesso come ricevitore, non è che sia un granché, però come hai inserito, siccome io l'ho sentito il giorno che l'ha provato, stavo cercando di capire se era il 140 o il 440, c'è una spinta micidiale, cioè praticamente qual è la differenza? Che con le MC85 ti comprime la modulazione, capito? Quindi ti mancano i medio-alti, con le MC60 c'hai dei medio-alti allucinanti, bellissima. E tu dici che va meglio così, dai. Adesso ho un'altra curiosità, siccome mi sono un po' fuetto, però mi piace più l'altro. Adesso metto il 440 e lo provo con tutti e due i microfoni per vedere un attimino. Adesso provo, dai. Aspetta, riprenditela, 5 minuti per poi piazzarlo. Sì, sì, ma a me me l'hanno fatto abbassare, io ho il mifigin a metà con il 140, è cosa che non ho mai usato, perché se lo aumento troppo è un casino. Ma non distorce, guarda Salvatore, da questo passaggio, aspetta che tu lo apporta, perché così non senti il televisore. Allora, guarda, da questo passaggio, mifigin a metà del 140, Michelin al massimo, c'è differenza di modulazione, è fastidiosa così con Michelin al massimo. Beh, inizia ad essere un po' troppo cavernosa, però non è che ha cambiato dal giorno alla notte, Ui. Perché? Mi sono volte. Si dice, come mai le mogli diventano perifraghe? Ui. Aspetta un attimino. Ma invece ditemi così, prima di cambiare radio, non anche perché se la dovrò dare, la devo abbinare un microfono, questo praticamente è l'MVP9, quindi la dovrò abbinare a questo microfono quando la darò. Come ti sembra con questo microfono? Per me va bene, tu mi spieghi questo io devo dire, altro che non l'ho capito. Per me va benissimo. È ricca di medio alti, è sicuramente è bella. Prova con l'MC60. Allora, adesso ti faccio tre passaggi, non riprendete, che faccio in 2 secondi a cambiare il microfono. Inizio con l'MB, con lo ZG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora cambio, MC60 cambio. Cosa voleva dire questo lui? Oh, perifraghe, io era completamente una frase. Perché dice? Perché le nostre donne poi alla fine non potrebbero non essere fedeli, sempre in occhio a parlare al baracchino. Ui. No, io guarda, come un pappo, perché volevo sentire a Salvatore con la nuova radio, che appunto ce l'ho anche io, della IAIS. Abbiamo fatto 2 passaggi in AM per vedere le comparazioni, ma sono tutte sufficienti. Poi con Fabrizio per io ho la sua camera, quindi c'erano sempre qua nel tempo. E poi Fabrizio che sta facendo delle differenze di microfonico. Fabrizio, questo che hai usato prima va benissimo, l'85 toglierò dal 140, fammi sentire adesso 60, io sto usando sempre l'80 col 140. Registrato. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questo è l'MC60. Allora, l'MC60 con 140 batte tutti i tuoi microfoni, qualsiasi microfono tu attacchi, non mi pare te l'avevo già detto l'altra volta. Tonalità medio-alta alla grande, MC85, tonalità medio-bassa molto compressa, MC95 molto bella, simile all'MC60, ma con tonalità medio-acute un po' più scarse. Salvatore. Sì, decisamente questa è il setup migliore. Bello, medio-alte, bella chiara, corposa, molto meglio di quell'altra. Quella era troppo cavernosa, proprio patente sì, però con i medio-bassi a manetta. Sì, ok, allora facciamo una cosa, tanto adesso mi rimetto la mia radio per quella che me, tanto questo dovrò dare via. A questo quindi l'abbinamento buono può essere anche per una questione di costi, ovviamente, perché questi sono 150 euro di microfono. Questa radio con un MVP, con un ZG come Luca, per esempio, che è molto bello. e quindi glielo posso abbinare, è una bella radio, con un po' più lì si abbina un bel microfono. Adesso dai, riprendete 5 secondi che cambio radio. Però fammi sempre ti occorre correggere, la radio invece a Luca era la mia, il lavoro è stato fatto in quella radio, io non so se tu l'hai fatto in quella lì, praticamente in quella di Luca c'è la LC a manetta, Anche qui, però si potrebbe fare un'altra cosa ancora, ma non lo faccio perché aprire la banda, voleva aprirlo un pochettino, ma l'ho fatto, quindi va benissimo per le bande laterali, se no va bene così, questo c'è benissimo, poi potrei farlo spaziare un po' di più, analizzando altre cose, va bene, però va bene così, questo non è realizzato, perché ho fatto tutto, va bene, cazzo, guarda, ti succedo che con questo, a differenza degli altri, già l'hai visto, ogni tanto a qualcuno, guarda che sei fuori, cazzo, riesco, se uno è leggermente fuori me ne rendo conto, perché questo è proprio, come quando lo vuoi lì, allora se è meglio uno che degli altri, è come il primo giorno, quindi ho detto, il prezzo che questo lo darò, è un ottimo prezzo, l'hai visto, se vai lì lo vedi, questo non l'hai visto, se lo vedi come cose tutto, come dici tu, forse sarebbe meglio tenerlo nel cassetto, dai, te dai cambio radio, dai, così facciamo le prove, perché vorrei tenerlo con le MC 85 per mille motivi, aspetta. Quindi per carità si fa così. KK. Ma cosa stai usando adesso tu? Ti hai preso qualche MC70? No, in questo momento sto provando la radio nuova. Stavamo provando questa serata sul tardi con Claudio alcune impostazioni, provando microfoni, setup vari, eccetera eccetera, e niente, tutto lì. Adesso Fabrizio stava provando il cambio radio a vedere quali erano i migliori abbinamenti, e probabilmente adesso ha finito di fare i collegamenti. Fabrizio, ti rilancio se hai finito. Lascialo fare, che sennò fa peggio. Io mi sento benissimo qua a casa mia, segnale 925, la radio bella chiara proprio. Non so come mi senti tu lì a casa tua, però io qua mi sento benissimo. Ok Fabri, e finalmente riesco a sentire anche a Grode. Ti sento come sempre, mi arrivi sempre un buon segnale, Santiago di Nove, la radio è comprensibile, poi oggi c'è anche decisamente molta propagazione, per cui si sente un po' di tutto, ma ti copio perfettamente come sempre. Fabrizio ha cambiato la radio, Grode, tu non mi dici niente. Salutare Fabrizio, ciao Salvatore, cosa ti dico, è migliorato dal giorno alla notte da quando ti ho sentito prima. Lasciamo entrare Fabrizio che freme dalla voglia di modulare. Avanti Fabri. Si sente di tutto, devi andare ad abbassare il mic gain, c'è poco da fare. A quanto ce l'hai? Adesso ho abbassato un po' il mic gain. Allora dimmi come in questo momento. L'ho abbassato un pochettino. Quanto ce l'hai? 1.5, 2? Uno e mezzo, come si può 1.5 al primo ora. Sì. Fabri, che vuoi che ti dica? Sì, sì, per carità, si sente, bella, bella spinta, la radio si sente, però è più chiara, quella delle MC60 è più chiara, c'è poco da fare. È una tonalità più pulita, sembra più pulita. Bene, quindi ti piace di più, diciamo. Eh sì, poi come hai detto tu bene prima, è anche soggettivo, è l'audio, per cui, però mi sembra più pulita, ho questa netta sensazione. Adesso ti rifaccio, vabbè, sono abbassato anche un po' il meeting game, adesso lo vedremo con me, a te lo vedremo. Chiudi la porta! Aspetta che metto l'altro. MC60 per quale radio va bene perché si sta già contattato già da un bel po' di tempo che è così. Gli altri sì vanno bene, sento, però l'MC60 è come il Sun MP3, per me è uno tra i migliori microfoni in assoluto, secondo me. Allora, Salvatore, questo io faccio qui, se te li veloce veloce, allora adesso faccio così, 1, 2, 3 prova, allontaniamo, 1, 2, 3 prova, conto sino a 10, a 5, 1, 2, 3, 4, 5, allora abbassare o diminuire? Passarlo. Ecco, adesso ho abbassato un pelino, 1, 2, 3, 4, 5, come ti sembra, va bene oppure devo ritoccare? Molto meglio, questo va bene. Questo va bene, Fabri. Controlla un po', quanto sei sceso come livello? Sì, lo sai che lo tocchi leggermente, cioè per dire, se adesso secondo te prova a sollevargli un altro po' o no? No. Guarda, perché sennò inizia a sembrare un po' gracchiante, capito? E poi io la senti bella pomposa, da combattimento, ma buona. Esatto. Ok, aspetta, guarda, adesso glielo sto, ma un pelo, un pelino, forse non me l'ho toccato, come ti sembra? Poi passaggi un po' più lungo? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un pochettino, 1, 2, 3, 4. No. Quando tu vai con le consonanti, soprattutto con le consonanti gutturali, tende ad essere gracchiante, quindi devi scendere, toglielo un pelino, hai ragione tu, cioè proprio basta sfiorarlo che cambia veramente il limite, dall'eccesso torni dentro al limite massimo gradevole. Ok, adesso proprio come poco fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come ti sembra? Va bene, forse ancora un pelino, proprio un'idea in meno. Ecco, allora ti riconto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso ho toccato proprio un'idea, come ti sembra? Guarda, secondo me è perfetta. È proprio al limite, è proprio al limite dall'essere troppo gutturale e un po' bruttina, perché la potenza c'è tutta, proprio c'è tutta, bella, piena, così mi sembra veramente che vada bene. Vabbè, allora lo lascio così, allora aspetta, mi correggo questo cavolo di corso qua. Noi siamo falso contatti, se c'è un filmatore, qualche falso contatto sullo spinotto, no, è un accordo che avevo fatto per mettere tutta una serie di spiriti, vabbè dai, riprendi. Ok, se mi scusate però con il permesso di tutti, compresi coloro che ci stanno ascoltando, bombolo in testa, mi hanno chiamato per cenare, vado e ritorno qui, insomma, una mezz'oretta e sono di nuovo qua. Ok, buona cena. Ma dai, buona cena. Salvatore, dai, ci sentiamo. Ma Antonio non c'è più. No, Antonio no. Magari la cosa è che esce il tuo controllo, il suo spinotto, perché ogni tanto come lo tocco fa problemi. completando, Fabri. Aspetta che lo provo, aspetta che cambio. Cambia, cambia. Siamo alla Lambert. Ma se sento bene, ma adesso è cambiato, 2060 già è. E adesso sì, poco fa quando ho fatto, ho provato a avere l'85. No, ma cambia, cambia, porca miseria, cambia radicalmente la situazione. Lo so, infatti adesso guarda, sono in trattative per vabbè, ce n'è uno, ma sto tentando 9.40, sto tentando che c'è anche il microfono, vediamo un po'. Gamba. Secondo me l'MC60 è number one, cazzo. Sì, quello là niente da dire, per carità, però questo è un'altra cosa, la verità. Aspetta 5 secondi che provo a fare una cosa, un attimo. Ok, sta andando? Avanti! Vale, vale, stupendo! Avanti, mi stai chiamando? Chi mi chiama su 10? Sì, 1, 2, 3, prova. Sta andando. Vabbè, sono tornato alla vecchia configurazione, la 340 con MC60, dai. Benissimo, cazzo, va benissimo, guarda. Non si sento molto, molto, molto bene. Oltretutto mi sto accorgendo di una cosa, anche che ti attenua anche un po' di rumore. Quello sì. Così va quello là. Microfono, diciamo che se lo sento un po' bene, comunque è molto simile al, poi anzi quello provo a questo, bisogna abbassare un po' lì, fare magari tu adesso non lo so, boh, l'avevo settato l'altra volta su vedere se andava l'MC60. No, guarda, oramai guarda, è già constatato da anni che è così, non c'è nulla da fare, però lì è sempre number one. Il pedale, poi aspetta. Ok, anche questo sta andando, se sera quando faccio un altro lavoretto, e anche questo sta andando, già andava, dai, quando va bene, va bene. Cambiato, va. Non sentire il cavolo, ma non c'è, no? A me ha detto che era andata a mangiare, poi boh, non lo so. Scappa. Spero se io riuscissi, vabbè, da qua, aspetta, devo fare un'altra cosa, cosa passano, 1, 2, 3 cavi. Questo lo vanno, adesso sto per modificarlo, però non ci capisco più niente. Scappa. Ma prima posso chiedere una cosa? Dimmi. Beh, voglio chiederla. Dimmi tutto. Ma si può fare l'amicizia su Facebook? Sì, c'è il cognome, sì. Posso, una cosa, dammela su. Devo entrare, accende il computer che è su Facebook. Di Antonio Pompolo, già mi truppi, già mi conosci tanto che sono. Sì, come, vabbè, adesso come, qua c'è il computer, ti sta lavando, qui tu confermala. Ma non ti preoccupare, se non ti creo disturbo, perché io chiedo sempre, se non ci sono nessun problema, se sempre se vuoi, non voglio obbligare nessuno. Sì, no, non c'è nessun problema. No, vabbè, anche io chiedo sempre, io chiedo sempre, se vuole uno, chiedo sempre. Non c'è nessun problema, mai, nessun problema. Adesso passo un attimino di cose che sono bambini e stanno ancora giocando e si rimettono a letto e stanno gridando. Poi più tardi, se coincide, ci sentiamo, eh? Ecco, vabbè, quando vedo la cosa l'accetto. iniziale. Va bene. In questo momento, fatta pizza in casa, corredata di wüsterini, wüster e prosciutto crudo. Negativo. La pizza è rigorosamente cappe di acciughe. No, c'ho abbastanza acidità di stomaco da... se non mi piace da morire, eh. Cappe di acciughe mi piace, e una passata di origano sopra pure. Monster, è un monster. Dopodiché cisterna di acqua di tempio a fianco al comodino, e poi che se ne è di pronta. Però, non è detto, manca su pruso e su mezzo. Pruso è che già birra, deve essere un bel, a livello di lamone. Ghiacciata, ghiacciata. Ah, grobbe, grobbe, ci siamo, ci siamo. Stampa di Roggio, le cose, i piaceri della vita li ho scoperti, eh. Alla veneranda età di 39 anni credo di avere un range di esperienze che mi permetta di godermela. Che cosa che non ti godi quando ti senti la radio e sei sempre esatto, ragazzi? Sono pieno, che sono teccio. Santo che sono, aspetta. Guarda così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attacca, attacca, che siamo il pesce locale, che attacca. Va fatto, Emi. Adesso è che ho girato l'antenna. Vai, vai, a tu, vai. E piglia il giro ai pisguani, no? A Claudio Sparviero. Comunque è strano che Antonio non ha ancora fatto l'americano che sta chiamando da oltre Alpe e cerca di agganciare questi poveri sassaresi in quel SEO locale. Tanto comprare il 2131 sembra che ci abbia accanto uno di quegli amplificatori da 3 kW, che sta sempre esatto, lo città pure. Cosa lo attacchi a fare? Attaccalo quando ti serve. C'è sempre saturo, sempre a mille, sempre saturo. Che non ci sei buono! Intesi, vai, Antonio! Ma non ci sei buono, Antonio, non ci sei buono! Impara da Antonio! Si sta mettendo importante. Ehi, non ho capito il tuo cosiddetto. Sta mettendo importante. Ho detto che non c'è buono se... cosa, Antonio? No, Antonio, chi è l'altro? Antonio Metal, tu eri a tu? Chi è che sta fischiando? Che è che sta facendo prove in canale, guarda? Adesso io mi arrivo a Santiago, ma esamino a tutti. Quando c'è preparazione, quando c'è corso a lunga distanza, in città non serve a niente, anche perché o hai disaccordo, non lo so, sei sempre satto, con qualsiasi radio ti ascolto sei sempre satto, sempre satto, sempre satto, il mio è un satto, la boh, io non so che ingresso le dai, che cosa la boh, ma io il 1931 mio con... con i baracchini non satura, è perfetto, quello tende a toglierti quella poca modulazione che c'hai. Sembra normale che uno stia modulando e ci sia una portante fissa con uno che fischia, che sta provando la radio, secondo me non sono sani di capo le persone. Ma era due ore ci ha messo Claudio. Attento Claudio! Ma questo non è uno che chiama così o Antonio Bombo. Non è lui che sta chiamando, che sta fischiando, perché Antonio Metal, ciao Antonio, buonasera. Ciao Cla, sto provando un amplificatore, che ho... No, no, è lui, no. Matto, Cla, guarda. No, no. Così è senza e così è con l'amplificatore. Ma è un mostro, se lo vedi fa paura, fa paura. È che non c'ho ampere. Se ti faccio così ti spavento. 100 ampere su chi a K. Se vedi il mio sarà un mostro con la doppia maschera. ma è per la 27 o la 7? Questo fa tutte le bande, Claudio, tutte le bande. Questo è il quarto amplificatore che ho, adesso ne ho quattro. C'erano di tutte le maniere. Questo qua è un mostro, Guarda, adesso mi sta succhiando 60 ampere. 60 ampere. E praticamente è grande quanto due scatole di scarpe, pesa 5 kg K. Io lo scelgo la ristretta, io ne ho tre, ma ne ho uno da 25 kg, uno da 35 kg e l'altro da 15. E vabbè, poi il 231 che non lo portiamo, quindi sono quattro. Però i tre grossi che ho sono abbastanza massicci. Uno l'ho mandato a Cagliari perché stanno cambiando il relè, e l'ho comprato col relè sfondato e quindi è già pronto. E non sanno come mandarmelo perché è talmente pesante e grande che è gemello del TL922, ti ho detto tutto, va. È gemello del TL922, va molto bene. No, aumenti da 9 a 9 più 20, quindi come io aumento a sorso, io passo da Vannino qua, da Sassari a 9, da 9 a 9 più 20. Quindi sono degli ottimi amplificatori, va bene. C'è Antonio Grode, buonasera anche Antonio Grode, buonasera Antonio Bombolo, buonasera a tutti. Salve, sono Claudio Spalviero. Avanti Antonio Grode. Avanti Antonio Grode. Antonio Grode, come è il suo solito fare, si allontana dalla radio senza dire niente, come fanno i figli della Tiracca di Camboni normalmente quando prendono lo stipendio e poi vanno via, non si fanno vedere per una settimana. Non mi ricordo come si chiama. E forse non ti sente, però lo senti Antonio Bombolo, Antonio Metta. Scusa, ho una polarizzazione orizzontale, perché cioè, mi interessava fare le prove più che ascoltare stazioni, ecco. Cavolo, che bello che è questo applicatore, se lo vedi qua, allo stato solido, capito? Tu agganci e stai andando, è una bomba, certo me lo scendo giù a Sennorino, hai capito ancora? Che questo qua lo attacco, gli sto dando 50 watt e ne esce, non te ne dico con quanto. Guarda, io con 50 watt con quello che avevo a Cagliari, con 50 watt e con l'850 me ne va 700, con 50 watt. 700 in AM sto parlando, però stai attento, in AM con lo IAESO invece con il 140 con 80 watt me ne da 450, ma è più che sufficiente per me in AM. Sto parlando in AM, in banda laterale non te ne dico, perché quello che accade è che ho provato al picco massimo di modulazione con 50 watt in banda laterale era 1200-1300, quindi vanno bene gli amplificatori, Anto, anche la luce costa troppo, quindi non c'è problema. Il problema di questo è che serve questo. No, ma io ho l'expert, che problemi ho? C'ho l'expert, il SPE 1K, quello che si già lo sai qual è, da 1,8 a 50, costa 3.500 euro quell'amplificatore. Ma mica lo uso qua, a divertirmi qua, a giocare qua. Ho uno che non ci va qua, perché no, è solo nelle bande amatoriali. Poi c'erano due a valvole, nuovi, uno lo vuole Vannino, mi sa che glielo do, e adesso c'ho questo che è micidiale. Guarda, non se ne scende niente in questo. Claudio, ma Saturo poi mi senti? No, ma è transettorizzato questo. Allora, c'ha quattro MOSFET, se lo vedi, è pauroso. Io ho il B750 così. Ho il B750, lo sto vendendo, 250 euro. B750, che è praticamente assorbe lo stesso un 40 ampere. Cazzo, questi telefoni. 40 ampere assorbe anche questo. Però non lo attacco perché non mi interessa. Non mi piace transistorizzato, io vado a valvole e gli altri tre sono tutti e tre a valvole. Quello invece è transistorizzato. Lo sto vendendo, se senti qualcuno, un B750. capito? Quattro finali lo stesso, 2+2 accoppiati, e tirava un bel infatti, un bel. Solo ci vuole un alimentatore da 40 ampere fisso, e non ci riuscì una gara di comprare un altro alimentatore, non me l'ha fatti più nulla. Il problema è che gli sta succhiando 50 ampere ora, e non basta, perché lui ne succhia 75 e tira fuori 500 watt continui. E... no, niente, me l'hanno dato, l'ho sistemato, ma è bello, adesso questo lo pulisco e lo metto assieme. E quindi praticamente ne ho due a valvole e due presettorizzati. Poi considera che c'ho anche il VVU, ma quelli non li contiamo, tra. C'ho apparecchi così, tanto per giocare l'aria. Comunque è bello, vediamo un po' se metto un po' il power, il drive. Ecco, adesso ho tirato su, Però l'alimentatore ho paura che lo spacco, Claudio, Guarda un po', così ne sta tirando 2,50 a capo. E si è sceso di pochissimo, però non cambia, non cambia molto, sei sceso di poco. Va bene. No, anche il mio, il B750 lo stesso in AM era sui 400-450, in modo laterale supera i 600. Però vanno bene quei lineari, vanno bene, non c'è problema. No, ma anche a me il transistor non è che... non ero molto d'accordo, preferisco più la valvola. Vediamo se è rientrato Antonio Grotti. Antonio, sì. Negativo. Antonio Bombo, lo riprendi? Lo senti Antonio Metta da IT? Ah, voglia che lo sento, qua. Lo sento abbastanza bene qua. E forse lui non mi sentirà, sono usato quattro fasi normali. Senti Antonio Bombolo, Anto. Sì. Non mi sento, ho problemi. Vabbè, Bombolo, un po' basso, ma sono con la direttiva, capito? Adesso cambio antenna, aspetta un attimo. Ma tirarti fuori, sento benissimo qua. E qua fa... liscio è 9,5 attaccato, è 9,20, già va bene. A me mi senti bene a te, di radio? Io qua sento tutti bene, sento benissimo proprio. Sono qualche altra radio nuova per te. Sì. Io ancora verticale, però sono con la verticale sei più alto. Sei più alto di liscio così. Se 9,10 con picchia 9,15. Non se c'è stazionale o no, tu che vai in disaccordo del casino. Comunque già vai bene, non so che riassegno. Vai bene. Lo senti Antonio Bombolo, Antonio Metta con la verticale? Non riesco a tirarlo fuori con la verticale. Verticale non lo senti, no? C'era la direttiva, per quello che lo sentivi. No, ho detto Bombolo, ma a me di radio bene mi senti? Ho usato, lo so. Assolutamente no, saturazione niente. Cioè niente. No, lo sento il mezzo del QRM, lo sento, ma sta usando un'antenna per la 27, sì. Ho stato usando un'altra antenna, Antonio Metal. No, adesso sto usando l'antenna per la 27, poco fa c'era l'antenna HF, capito? È per quello che lo sentivi diverso. Lasciamoli parlare allora, dai, pure io. attenzione al binario 10, prego. Attenzione sul 10. Ce ne sono sui binari 10. Buonanotte a tutti. C'è qualcuno sul 10? Qualcuno sul 10? Quasi. Tanto? Eccomi. Vabbè, non c'è nessuno. A quanto fare, no? Claudio mi ha detto che rientrava poi, ho capito. Io stavo sistemando un po' di roba, ho cenato, ora... E ora ci facciamo una partitina. Ah, che oggi è venerdì e possiamo fare tardi. Ma domani non lavori? No. No, ci dobbiamo semplicemente svegliare per... dare la colazione a nostra figlia che va a scuola, però poi mi riappisolo volentieri. Ah, vabbè, dai. No, no, guarda, io sarà perché sono abituato a fare l'ora, pure se sabato o cosa, a quell'ora lì devo essere in piedi. Cappa. Vabbè, chiaramente. Situazioni diverse, ma tu figli ne hai? No, niente figli. No, non c'ho neanche una compagna. Ho capito. Vabbè. Troverai. Ma adesso per il momento è a scocco, poi vediamo. Ho capito. Vabbè. Quanti anni ha? 11. Grandezza, caspita. No, sta diventando una signorina. Grandezza. Eh sì. Ma comunque. Oppa. Oggi che hai fatto di bello? Oggi no, questa sera. Arrivo. Scusa un attimo, Anto. Scappa, dai. Non c'è problema, dai. Anto? Antonio? Avanti, ero sdraiato. Scappa, rieccomi. Stavo andando a sveglia per domani. Ah? Un pochino sdraiato, mi sono poi in sacchetta ce l'ho tutto il giorno lavorato, stato e tornato facendo. Ecco, tra un po' ci sarà di ritorno il nostro buon Domenico. Certo, un po' sarà, dico, di ritorno tra le sorelle, no, presto Domenico. Ma Domenico Sarzanetto, già lo conosco, lo conosci tu, di persona? Sì, ci siamo conosciuti due settimane fa, un'occasione tra l'altro curiosa. Poi tra l'altro io non conoscevo lui, non conosceva me, non sapevamo l'uno dell'altro, però avevamo un amico in comune. Attenzione Salvatore. So Grode, che ritorna. Ciao Grode. Aspetta che regoliamo. Parola. E come è successa questa cosa? Chi era l'amico in comune che avevate? Ma soprattutto avevate anche qualcuno in provincia? Quello è stato per eliminare. Racconta. Chi è che non stava sempre la portata? Chi è che si permetteva della portata al Grode? Siete sovramodulati, tu e Bombolo. Io non te ne metto portante, lo sai, che sono un cazzo. Dentro ci mancherebbe. E stavi dicendo, dove l'hai conosciuto? No, ci siamo conosciuti perché eravamo a un incontro di coso per la cresima di mia figlia. La moglie è catechista ed è la catechista di mia figlia, ed è c'è un, abbiamo un comune amico. Ho capito. Vabbè, ma tu della frequenza, gli unici che non conosci sono il sottoscritto, Tu Palchetto e vabbè, poi qualche altro che del circondario, non di Sassari. E tu Falchetto, mi sembra che forse siete rimasti voi due, non avervi ancora incontrato. Bombolo l'ho conosciuto una domenica mattina. Visto che fortuna che ho avuto, è un bel ragazzo, Snello soprattutto, vero tu? Capito, padre, cosa hai detto? Tizio, e dove è Fabrizio? Lui sta da me, Salvatore, non ho capito che hai detto. Ho detto Snello soprattutto, Bombolo. Io cammino molto a piedi, la verità. Cammino molto perché se no sono capo di mia. Perché io sono tipo una forchetta, capito? Devo stare molto attento. È fisico da pugile, Bombolo. Infatti quello che salva a Bombolo è il fatto che cammina molto, che cammina molto. Se così non fosse stato, credo che sarebbe diventato un Pavarotti Junior. Ascolta, ma se una di queste sere organizziamo, o una di queste mattine, domenica però, organizziamo un pranzo o una cena, tua moglie ti lascia andare? Basta vedere dove si va, che intenzioni si hanno, e poi si può andare da tutte le parti. Stavo pensando o in un ristorante oppure in una casa al mare, adesso vediamo un attimino di organizzare, perché chiaramente saremo avvertiti tutti per tempo, almeno una settimana prima, dai. Ma l'importante è che non sia una cosa di quelle da 80 ore, perché cioè no, un due orette è un discorso, due ore e mezza, no, perché domenica io mi lascio sempre le cose che non riesco a fare durante la settimana, e quindi insomma c'è da dedicarle anche alle altre persone. Di Roger, cosa vuol dire aver famiglia grande? Guarda, il giorno che scopro come si fanno i figli me ne faccio una domanda. È un po' difficile, è anche complicato da spiegare. Ma non è rimasto nessun altro in frequency? Da appena ritorno il buon Claudio, gli devo dire come ho fatto a memorizzare i canali nell'apparato. Roger, un attimino di bianco per me, che sto finendo di chiudere una cosa. Io invece vado a chiudere un attimo la porta, così non mi sentono. Gamba. Chiudi la porta, almeno non ti sento. Rieccomi qua, così mi tenete compagnia mentre io sto operando questo tour de force. Cos'è questo tour de force? Quel gioco che mi hai detto l'altro giorno? Sono iscritto a un torneo, è iniziato alle 9, però c'avevo un'ora di tempo per iscrivermi, sino alle 10, ora massima, quindi sono entrato alle 10. E ci sei? Quindi ci sono, quanto tempo? Da 3 minuti, però 2 settimane fa ci sono stato 7 ore e 20. Mamma mia, sempre seduto nella sedia. Beh, nel divano in questo caso. Abbiamo finito alle 4.40, alle 4.20. Alle 4.20 di notte. Eia. Se non stato domani nella sedia. Già io sono un nemico delle sedie. Vabbè, per tutte le cose ci sono i pro e i contro. Io almeno se sono la seduta, altro mi devo alzare. Ti puoi fare anche le pause, chiaramente. Una pausa di 5 minuti a ogni ora. Papà, dici no, dici senza, una cosa così. E vabbè, però c'era un buon montepremi per cui ne valeva la pena. Beh, ah, se è così va bene allora. E beh, va bene, va bene, hai voglia. Papà, ma tu ho fatto un fumo. Mai fumato in vita tua? Sì, tempo fa, però poi mi stavo scocciando anche perché era un periodo che stavano aumentando costantemente, poi facevo anche sport e ho lasciato perdere, proprio così, dallo già domani, punto in bianco. Ma pure io ho fatto quello che hai fatto tu. Poi ho aumentato anche di qualche chiletto, perché è naturale, tendi a assimilare di più, però sta salute. Grazie, anche io l'ho fatto. Quanto tempo fa? Dunque, penso 18 anni fa, 17 anni fa. Perché ha pensato bene a buttare quella porcheria. No, io ho fatto 2 anni e mezzo fa, ho preso, ho chiuso tutto canto e laga, non ne voglio più sapere. E io quando dico una cosa, no, sono fatto così, non sono come molte persone che si rimangiano tutto. Quando dico una cosa sono una persona un po' inquadrata, quando dico una cosa è che c'è fatta, non c'è rimedio. Eh sì, no, poi per me stava coincidendo, manca a farla apposta con l'ingresso in un ospedale perché mi dovevo fare un'operazione, per cui ricordo ero sceso dal tassi, l'avevo appena accesa la sigaretta, ho fatto 2 tirate, ho detto basta, mi sono proprio rotto, l'ho buttata e al giorno non è più toccato. Io un giorno sono sabato sera, sono ero lì piazza dei segni, ho fumato l'ultima sigaretta, ho preso il panchetto, l'ho fatto da terra, che ti ne tutto, ho detto beh, da oggi ce la pigli in culo, tu da bacchino e quanto esiste. L'ho preso, non ho più fumato. Beh, hai visto la partita stasera? Sai cosa ha fatto la Dinamo? Ieri sera so che ha vinto, però la partita non l'ho vista. Stasera c'era la seconda, erano 2 di seguito, sempre qui a Sassari. Alle 8:30 era su Rai Sport 1. Guarda, non lo so proprio. Vediamo che abbia vinto. Forse c'è ancora. Boh. C'è una televisione sotto mano. E ce l'ho. Prova a mettere Rai Sport 1. Ma fai cose. Sono regioni che non accendo. Diciamo vero. Ma io ti auguro tutta una buona fortuna, ti auguro, guarda. Perché se lo merita per come sta giocando. Io non lo seguo, la verità io non lo seguo la basket, però gli auguro tutta la buona fortuna di questo mondo, perché è tutto una buona rappresentanza anche per la nostra città, per tutti i tardi, da. E beh, c'è qualcosa? Grazie, Rita. E ci arrivi. Adesso andiamo. Siamo arrivati al canale. Noi, in diretta, dovrebbe essere... A me non mi pare la Dinamo. Come? Italia. Oh, Rai Sport 1. È in diretta. No, è in diretta c'è questa partita qua. Non c'è la Dinamo. La Dinamo era ieri, cazzo. Ma senza il problema sul 2. Niente. O è già finita la partita? E allora forse è già finita. Aspetta che guardo su internet. Cosa dicono? Qua c'è il coso, c'è... come si chiama? C'è l'Italia, Corea. Buonasera, ciao Salvatore. Ciao Max. E beh? Ciao. È un treno, è tutto Stardust. Sono riuscito a clonare da quello originale. Ho fatto un po' di aggiustamenti nel sistema operativo perché alcune cose vanno cambiate, perché qua avendo il disco statico si comporta un po' diversamente da quello classico, ma è allucinante. 7-8 secondi per avviare il sistema operativo, proprio per essere già operativo. Ho fatto una nuova coppia di file, sempre da dentro hard disk, da una parte all'altra, è partito a 330 mega al secondo per stabilizzarsi intorno ai 170-190, è un treno. Gli applicativi li apre in un attimo, come se stessi lavorando con la RAM e basta. Sono belli. Ci sono dei giocatori di poker professionisti che usano questo genere di hard disk di grande capacità proprio perché la mole di dati da scrivere di tutte le mani eccetera eccetera con software appositi, lavorano con i database, i PostgreSQL, no? Siccome sono veramente tanti, hanno bisogno di performance e usano questo genere di hard disk. Qualcheduno, devo dirti la verità, che però ha avuto problemi, hanno tiltato, però la maggior parte sono strafelici perché effettivamente le performance di scrittura ci vogliono tutte. Oh, guarda, ho le cose di